giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Notte violenta ieri a Trieste con due distinti fatti di sangue. In piazza Perugino un giovane accoltellato all'addome. In campo San Giacomo un operaio edile di 48 anni aggredito da sconosciuti. Prosegue a più livelli il dibattito riguardo le criticità del soccorso tecnico nelle aree fluviali a 3 mesi dalla tragedia del Natisone. Summit a forni volti tra sindaci, un consigliere regionale e il presidente della comunità montana sui problemi e prospettive della viabilità in alta Valdegano. Per il contenimento delle liste d'attesa, l'azienda centrale Friuli Centrale da sabato attiva 240 nuove sedute ambulatoriali aggiuntive. Revocato lo sciopero del 13 settembre dopo la sigla di un nuovo accordo in azienda sanitaria Friuli Occidentale sulle risorse da destinare al personale. Basket amichevole vincente per la Gesteco che a Sutrio ha regolato i Kapfenberg Bulls, formazione del massimo campionato austriaco, per 89-70. Alle 12.31 minuti, ancora un cordiale buongiorno da Dario Ronzoni e Armando Mucchino, a voi con la notizia della TGR del Friuli Venezia Giulia. In apertura alla cronaca, in piazza Perugino Trieste, un giovane accoltellato all'addome, in campo San Giacomo, un operaio aggredito da sconosciuti. Notte violenta, quella di ieri a Trieste. A Trieste continua la scia di fatti di sangue, violenze che sconcertano l'opinione pubblica. Ieri sera, verso le 20.30, il primo episodio in via San Giacomo in Monte, davanti al Civico 7. Un triestino di 48 anni, operaio, è stato accoltellato. L'aggredito ha subito una profonda ferita ad una gamba ed ha perso molto sangue. Sul posto è arrivata subito una radiomobile dei carabinieri e dei soccorritori del 118. Il ferito è stato ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale di Catinara. È cosciente e questa mattina è stato interrogato dai militari dell'arma. I carabinieri hanno anche visionato i filmati delle telecamere posizionate nella zona. Le indagini sarebbero a buon punto. Sempre ieri notte, poco dopo le 22, l'altro fatto di sangue. In piazza Perugino, sconosciuti hanno accoltellato all'addome un tunisino poco meno che trentenne. Il giovane ha subito ferite importanti, ha perso molto sangue, ma per il pronto intervento dei soccorritori non è in pericolo di vita. I primi ad aiutarlo sono stati i militari di una pattuglia dell'esercito impegnata in un pattugliamento della piazza Perugino, un'attività programmata nel quadro degli interventi predisposti dalla questura per garantire più sicurezza nell'area che va da Piazza Foraggi a Piazza Garibaldi. Sul posto per le indagini la Polizia di Stato. Trieste, Walter Scherk, TGR del Friuli Venezia Giulia. 3 sindaci dell'Alta Valdegano, un consigliere regionale e il presidente della comunità montana della Carnia a Forni a Voltri hanno discusso sui problemi e le prospettive della viabilità della strada regionale 355 Villa Santina-Sappada. La strada regionale 355 della Valdegano ha bisogno di cambiamenti. I residenti ne sono convinti da anni e con l'ingresso di Sappada in Friuli Venezia Giulia si è fatta ancora più impellente l'esigenza di migliorare i collegamenti con Tolmezzo. Una strada piuttosto frequentata da mezzi pesanti che d'estate insieme al traffico dei turisti diventa un imbuto, soprattutto in corrispondenza della strettoia di Rigolato. C'è un progetto di variante per spostare la viabilità fuori dal centro dell'abitato, ma è stato fermato dal ricorso di 4 cittadini. Il TAR ha dato loro torto, ma hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato. Anche di questo si è parlato nella sala cinema di Forni a Voltri, in un incontro con la cittadinanza molto partecipato. Hanno preso la parola l'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Miranti, i sindaci del territorio e il consigliere della Lega Emanuele Ferrari. Un progettista ha presentato delle ipotesi di potenziamento della strada da Comeglians fino a Sappada. Il primo obiettivo è ridurre e smussare le 54 curve che portano a Forni a Voltri. C'è poi la necessità di rendere più dolce la salita per cima a Sappada. Tra le ipotesi, una galleria di quasi 3 chilometri fino a Sappada Centro e il recupero della vecchia strada abbandonata dopo il 1966. Durante l'incontro i sindaci hanno sostenuto che il miglioramento della viabilità è necessario per tamponare lo spopolamento della montagna. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A 3 mesi dalla tragedia del Natisone, che ha visto la morte di 3 giovani intrascinati dal fiume, tiene ancora banco il dibattito riguardo alle criticità del soccorso tecnico nelle aree fluviali. Il consigliere regionale Furio Onsa, di Open Sinistra FVG, ha presentato un'interrogazione mentre chiede spiegazioni l'avvocato di 2 dei ragazzi morti. A 90 giorni dalla tragedia del Natisone, in cui hanno perso la vita Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, Politica e famiglie delle vittime chiedono chiarezza sui protocolli operativi di salvataggio in aree fluviali. Soprattutto dopo tre casi, due sul torrente Arzino, uno il 13 agosto proprio sul Natisone, in cui persone in difficoltà sono state salvate grazie all'intervento dell'elicottero sanitario con tecnico del soccorso alpino a bordo e Vericello. Avvocato Gaetano Laghi, difensore delle famiglie di Bianca e Christian. Ci aspettiamo una iscrizione nel registro degli indagati di qualcuno affinché poi si possa cominciare effettivamente a ragionare di una imputazione in maniera concreta. Certamente io e i familiari delle povere vittime ci siamo chiesti anche recentemente, apprendendo da notizie di stampa, di un salvataggio effettuato con successo, grazie al cielo, proprio sul fiume Natisone intorno a Ferragosto, con l'elicottero, con l'ausilio del Vericello e quindi con tutto ciò che ci si sarebbe aspettato anche nel caso di questi poveri tre ragazzi. I protocolli attuali, definiti dal Ministero dell'Interno e seguiti dagli operatori del numero unico di emergenza 112, fanno una distinzione tra soccorso tecnico, di competenza dei vigili del fuoco, e soccorso sanitario, che vede l'attivazione della SORES. Il consigliere regionale Furio Onsel ha presentato un'interrogazione all'assessore Riccardi. Forse è il caso che si faccia finalmente un serio protocollo con i vigili del fuoco, si capisca che anche in una situazione di emergenza ambientale come quella che stiamo vivendo, la distinzione tra intervento tecnico e intervento sanitario di pronto soccorso è molto labile, pertanto non ci si può rifare a regolamenti che non prevedano, diciamo, questa situazione di emergenza. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Giulia. Si avvia la conclusione della stagione dell'esodo e del controesodo estivo, con le ultime partenze verso il mare e la montagna e gli ultimi rientri, in particolare dal centro-est Europa. Stando alle previsioni, calcolate in base a dati storici, in possesso da Autostrade Alto Adriatico, domani e sabato 31 agosto saranno caratterizzati da bollini rossi, traffico intenso, in particolare sulla A57, tangenziale di Mestre, e sulla A23, Udine Sud, Palmanova. Nel pomeriggio, traffico sostenuto in A4, direzione Venezia, con possibili code e rallentamenti in entrata all'Isert. Per sabato lo snodo cruciale sarà rappresentato dal tratto della 23 tra Udine Sud e il nodo di Palmanova in direzione Palmanova, dove si concentreranno i mezzi di rientro dai paesi d'Oltralpe verso il nord Italia, quelli che si dirigeranno verso le località balneari. Sono previste code in prossimità delle uscite agli svincoli in direzione delle località di mare, in particolare la Tisana in entrata e in uscita e a San Donà, e nel tratto della A4 tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova in direzione Trieste. Nella stessa giornata complessivamente è previsto il transito di circa 179.000 veicoli. Domenica poi, domenica 1 settembre, il traffico dovrebbe essere sostenuto da bollino giallo con possibilità di code e rallentamenti in prossimità degli svincoli diretti alle località balneari sulla 4 alla barriera dell'Isert in entrata alla mattina, in uscita al pomeriggio. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Da sabato 7 settembre l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale renderà operativo il nuovo piano di azione per il contenimento delle liste d'attesa. Saranno attivate 240 sedute ambulatoriali aggiuntive calendarizzate nelle giornate di sabato per un totale di circa 2.500 esami messi a disposizione dall'azienda. Questa maggiore offerta è stata resa possibile grazie a un'importante revisione del modello di erogazione che coinvolge tutti i presidi ospedalieri dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. A livello ambulatoriale, l'azienda, oltre a potenziare la capacità di offerta, sta approfondendo la verifica dell'appropriatezza della domanda, sempre nell'ottica di migliorare la risposta, che in questo caso significa intervenire sui tempi d'attesa. Nel prossimo futuro saranno oggetto di revisione anche i percorsi di presa in carico dei pazienti degenti. Per quanto riguarda i ricoveri chirurgici, infatti, ASUFC ha avviato percorsi di ottimizzazione dell'utilizzo delle sale operatorie, intervenendo anche sulla digitalizzazione dei sistemi clinici. Siglato un nuovo accordo in azienda sanitaria Friuli Occidentale sulle risorse da destinare al personale, accolte le richieste di Will e Nursind, revocato lo sciopero del 13 settembre. Siglato il nuovo accordo e revocato lo sciopero del 13 settembre, la direzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha accolto le richieste di Will e Nursind e oggi in un incontro a Pordenone con i sindacati è stato firmato l'integrativo aziendale sulle risorse economiche da destinare a lavoratrici e lavoratori. Stefano Bressane, segretario generale Will FPL. Abbiamo revocato lo sciopero in quanto la direzione di ASFO ha accettato tutte le nostre richieste. Siamo riusciti a portare 1.400.000 euro di prestazioni aggiuntive e il pagamento delle stesse a 2 mesi. Nel precedente accordo il pagamento era a 12 mesi. Oltre a questo siamo riusciti a ottenere la valorizzazione del personale di tutte le equip delle sale operatorie. Tutto questo vale oltre 300.000 euro. Luca Petruz, segretario generale Nursind. Oggi abbiamo ottenuto qualcosa in più sicuramente perché le proposte che abbiamo avanzato sono state ben accettate, accolte dall'azienda. A differenza dell'accordo precedente che non garantiva quello che abbiamo ottenuto oggi, abbiamo ottenuto dei risultati che sono un aumento per quanto riguarda l'indennità e la tariffa oraria per quanto riguarda i festivi. Abbiamo ottenuto un adeguamento al pari dei medici per quanto riguarda la reperibilità dei medici. E oltre a questo abbiamo ottenuto anche l'indennità sui super festivi. Le sigle sindacali sono state convocate in tavoli separati. Il precedente accordo era stato sottoscritto lo scorso 18 luglio solo da CGIL e CISL. Pierluigi Benvenuto è segretario regionale FP-CGIL. Abbiamo chiuso anche questo capitolo dell'accordo integrativo, questo addendum fatto a posteriori. Insomma, la cosa che dispiace è che si poteva chiudere tutta questa cosa già a luglio, quando noi con l'RSU e la CISL avevamo già firmato. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A 90 anni è morto Renzo De Vidovic, storico esponente del movimento degli esuli istriani, fiumani e dalmati e della destra triestina. Originario di Zara, esule, si trasferì a Trieste con la famiglia. Nel 1953 fu protagonista dei moti a difesa dell'italianità della città. Nel 1972 fu eletto deputato alla Camera nel Collegio di Trieste e nominato segretario del gruppo parlamentare Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale. De Vidovic nel 99 divenne presidente della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Era presidente della sezione Dalmazia della Lega Nazionale della Fondazione Rusti a Traine, dedicata agli esuli dalmati italiani sparsi nel mondo. Promosse corsi di lingua e cultura italiana in Dalmazia e fondò nel 2004 il Centro di Ricerche Culturali Dalmate, Spalato, di cui fu presidente. Alle 12.42 la pagina del tempo, cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 28,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, Gorizia 32 gradi, Udine Pordenone 31, Forni di Sopra 25 gradi, Tolmezzo 27, Tarvisio 24, Piancavallo 23, Sappada 16 gradi, in quota sullo Zoncolan 20 gradi e sull'Ussari 19, tornando sulla costa Grado e Lignano 30 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi. E queste invece sono le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime ore avremo cielo in prevalenza sereno. Al pomeriggio sulla zona montana è prevista maggiore variabilità con possibili rovesci e temporali sparsi anche sulle valli del Natisone, venti a regime di brezza. Per domani su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo in genere poco nuvoloso, ma nel pomeriggio non è escluso qualche rovescio verso la fascia alpina più interna. Venti anche domani a regime di brezza, le temperature saranno di oltre 5 gradi sopra la norma del periodo. Guerre, migrazioni e spostamenti di popolazioni nel Novecento. Il titolo della Summer School di didattica della storia organizzata dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Quest'anno si tiene a Trieste, al Narodni Dom, scelta per la sua posizione nel flusso delle migrazioni. Alle lezioni prenderanno parte quasi 90 docenti di storia provenienti dalle scuole di tutta Italia. Abbiamo intervistato Enrico Acciaia, presidente della commissione didattica dell'Istituto Parri. C'è una difficoltà notevole perché molto spesso ci si concentra solo sulle giornate memorialistiche e si affrontano solo attorno a quei giorni in cui ai docenti si chiede di affrontare il tema. L'obiettivo della nostra Summer è di dare degli strumenti ai docenti che partecipano per avere un approccio più ampio e per avere anche uno sguardo più ampio. che vada oltre la dimensione strettamente locale, quindi facendo una comparazione diacronica con altri periodi della storia contemporanea, della storia del Novecento e guardando anche ad altri contesti geografici. Da sabato fino al 5 settembre sarà in regione la Carovana dei Ghiacciai, la campagna di Legambiente che monitora i ghiacciai alpini, arrivata alla quinta edizione. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sullo stato di salute delle Alpi Giulie, esaminando gli impatti della crisi climatica in alta quota e ribadendo la necessità di politiche di adattamento e di mitigazione. La tappa si aprirà il 1 settembre con l'escursione al fiume Isonzo con ritrovo a Dom Trenta presso il centro visite del Parco di Trenta a Bovez Plezzo. La visita sarà accompagnata da Marco Pretner del Parco del Triglav. Lunedì 2 settembre alle 16.30 si terrà il convegno Vita nei ghiacci e vita dai ghiacci, ecosistemi glaciali in cambiamento alla Casa delle Guide di Trenta, a Trenta appunto in Slovenia. Il convegno, che si svolgerà in inglese, vedrà la partecipazione di studiosi italiani e sloveni. Martedì 3 settembre salita al ghiacciaio del Canina, a seguire dal rifugio Gilberti. L'escursione procede verso i resti del ghiacciaio del Canina, dove l'osservazione sarà guidata da Renato Colucci dell'Istituto di Scienze Polari del CNR e da Walter Maggi, presidente del Comitato Glaciologico Italiano. Nel pomeriggio il saluto al ghiacciaio con il violinista Giacomo Ambrosino. Infine, giovedì 5 settembre alle 10.30, la conferenza stampa di presentazione dei dati sullo stato di salute dei ghiacciai delle Alpi Giulie nella sede di Legambiente Friuli Venezia Giulia a Udine. Si sono svolte regolarmente a Trieste le operazioni di demolizione della ciminiera alta 49 metri del vecchio inceneritore di Via Giarizzole. Attorno alle 19 di ieri una serie di microcariche esplosive posizionate alla base con dei piccoli fori sono state fatte detonare provocandone il crollo. Sparisce dunque un punto di riferimento visivo della zona periferica di Trieste. I detriti sono finiti in un letto di inerti che ha assorbito le vibrazioni della caduta. Per motivi di sicurezza alle 18.30 erano stati bloccati gli accessi alla grande viabilità da Via Herrera fino al Molo Settimo, poi riaperti a fine operazioni. Durante il lavoro la strada è rimasta ovviamente chiusa anche ai pedoni. Un viaggio virtuale tra le aziende del comparto foresta legno della nostra regione si può fare in questi giorni alla Fiera Internazionale del Legno a Klagenfurt, grazie al Legno Servizi, col sostegno del cluster Legno Arredo Casa della Regione del Friuli Venezia Giulia e CESFAM di Paluzza. Uno strumento realizzato con la collaborazione dell'Università di Udine, grazie alla ricercatrice Silvia Masserano, che ha creato un padiglione virtuale da visitare in 3D con un visore. Il catalogo raccoglie oltre 30 aziende del settore, dalle imprese boschive alle segherie, che accompagneranno il visitatore in un tour digitale col fine di valorizzare le aziende del legno del Friuli Venezia Giulia e di promuoverne l'utilizzo tra gli addetti ai lavori. Ora lo sport, il basket, gli avversari per la prima amichevole ufficiale della Gesteco, disputata nella palestra di Sutrio, erano i Kapfenberg Bulls, formazione del massimo campionato austriaco che i cividalesi hanno regolato con un perettorio 89-70. Per metà partita è sembrato di vedere un match di campionato condito dalla sofferenza che inevitabilmente viene a galla quando la squadra va sotto. Poi la Gesteco ha preso il largo chiudendo con un ampio margine. Gli avversari della prima amichevole ufficiale disputata nella palestra di Sutrio erano i Kapfenberg Bulls, formazione del massimo campionato austriaco. Il team stiriano è partito subito fortissimo, 25 punti segnati nel primo quarto, più 7 al primo intervallo, diventati più 12 a metà partita, con evidenti difficoltà dei gialloblu a contenere la spinta offensiva degli avversari. Dal terzo tempo è sembrato di vedere un altro incontro. L'attacco della Gesteco ha messo il turbo, ben ispirato da Redivo, che per una volta non ha svolto le funzioni di macchina da punti. Hanno segnato un po' tutti, la novità Marx, Dell'Agnello, Miani, Mastellari, Berti. Alla fine del terzo tempo è arrivato anche il primo vantaggio per la squadra di Pillastrini, 61-59. Nell'ultimo parziale gli austriaci sono andati in crisi, forse stanchi dopo tre tempi giocati a ritmo elevato. L'ultimo sussulto, il capitano dei Bulls, Kerstich, ha riportato i suoi a meno 4. Da quel momento si è vista solo la Gesteco. Il sigillo è stato firmato da Miani, una schiacciata e un tiro da 3, per un totale di 17 punti, il più prolifico dei suoi. Il margine è diventato davvero ampio, alla sirena 89-70 con un parziale di 28-11 per i Ducali. E anche le altre formazioni regionali scaldano i motori in vista del prossimo campionato. Sabato sarà la volta dell'APU, impegnata a Codroipo contro lo Zagabria, sempre nell'ambito della 21esima Basketball Summer School. Nella stessa serata, amichevole di lusso per la Pallacanestro Trieste, che a Castelfranco Veneto affronterà la Vanoli Cremona, un antipasto della Serie A che inizierà tra un mese. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora sport, il ciclismo. Non si stanca di vincere Jonathan Milan, lo sprinter di Buia, che ieri, dopo una lunghissima volata, si è aggiudicato a Bilzen in Belgio la prima tappa del Renewi Tour, battuto il belga Philipsen. È una competizione di categoria World Tour, la più importante del calendario ciclistico, che vede al via quasi tutti i migliori velocisti al mondo: Girmay, Groenewegen, Merlier, Delie, Bennett, solo per citarne alcuni. È la decima vittoria internazionale nel 2024 per il ciclista friulano. Oggi seconda tappa a cronometro 15 km con partenza e arrivo a Tessenderlo. Subito una medaglia invece per il goriziano Luca Braidotta all'esordio dei mondiali di mountain bike ad Andorra. L'Italia ha ottenuto il bronzo nella staffetta mista alle spalle di Stati Uniti e Francia. E ora la cultura, conferenza stampa di presentazione della stagione 2024-2025 del circuito dell'ente regionale teatrale, che ha i cartelloni delle 28 stagioni di prosa, musica e danza sul territorio. Alberto Bevilacqua, direttore dell'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, qual è la filosofia con cui avete costruito questo nuovo cartellone? 250 serate, l'idea è quella della capillare diffusione dello spettacolo dal vivo in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Il criterio è quello di proporci come un network dello spettacolo dal vivo che offre e restituisce attraverso questa grandissima offerta lo stato dell'arte della produzione teatrale. Oltre 200 produzioni, ma citiamone tre. Possiamo ricordare lo spettacolo di Lopez Solenghi, che aprirà tantissime stagioni, come lo spettacolo di Bertolino, prodotto dal Teatro Bonaventura. Una presenza capillare su tutto il territorio regionale per fidelizzare ancora di più il vostro pubblico. 28 teatri e l'idea del network sta proprio nel fatto che nel dopo Covid abbiamo osservato che oltre al pubblico che si affeziona alla singola sala, 28 sono i teatri in tutta la regione, si è sovrapposto anche il pubblico che invece sceglie, grazie agli nuovi strumenti tecnologici, il dove, il quando e il cosa andare a vedere. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il comune di Trieste informa che a causa di problemi tecnici il centro civico di Valmaura in via dei Macelli 1 rimarrà chiuso fino a data da destinarsi. Si invita pertanto a prenotare il proprio appuntamento presso uno dei centri civici al momento attivi. Si informa inoltre che gli appuntamenti già fissati per il rilascio delle carte d'identità elettroniche verranno spostati presso gli altri centri civici e che si provvederà a comunicare tempestivamente agli interessati la nuova sede presso cui recarsi. E ora alcuni appuntamenti musicali al Teatro Miela Trieste in occasione del 29esimo congresso di IBBI, l'International Board on Books for Young People. Ci sarà il concerto Metti una sera, a tribute to Ennio Morricone, con la FVG Orchestra, diretta da Paolo Paroni. Inizio alle 21.30. Sempre a Trieste è in programma il concerto della mandolinistica capodistriana della comunità degli italiani Santorio Santorio della città istriana, che riprende la tradizione delle orchestre a plettro. Vasto il repertorio, da Nino Rota a Johann Schrammel, che ha fornito la musica per la canzone triestina Mollige il fil che svoli. Appuntamento al Museo Sartorio alle 21. A Grado stasera il concerto dell'orchestra Go 2025 Unite, composta da musicisti italiani e sloveni e diretta da Igor Zobin. Il programma comprende il concerto della Roggia di Giorgio Tortora e dedicato a Udine, oltre a Tanghi di Astor Piazzolla. Alla Basilica di Santa Eufemia si consiglia di arrivare entro le 20.30, l'ingresso è libero. Si intitola Musica per il naso, alchimie di suoni e profumi. L'appuntamento di stasera è per il festival Nei suoni dei luoghi con il quartetto Chagall insieme alla violinista Valentina Danelon. Oltre alle musiche di Vivaldi, Debussy e Satie ci saranno anche le fragranze del maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro alle 20.45 a Villa Marcotti Chiozza di Campolongo Tapogliano. A Palma Nova invece è in programma il concerto dell'organista danese Søren Glerup Hannese, che eseguirà musiche di Buxtehude, Schilte, Muffat e Frescobaldi in Duomo alle 21. E per il Brass Festival stasera in programma il concerto del Quintet Bacchus di Parigi con musiche della tradizione americana che vanno dal jazz alla musica popolare alle 21 alla Barchessa di Villa Correr Dolphine giovedì 29 agosto, quindi stasera alle 21 a Porcia appunto, mentre per Jazz Insieme a Spilimbergo stasera tocca il New Think Jazz Quartet, che prende il nome da un movimento musicale degli anni 60 legato agli aspetti dell'improvvisazione. Appuntamento per questo concerto in Piazza Garibaldi a Spilimbergo dalle 21:15 con ingresso libero. E questa era l'ultima notizia del giornale radio. Ricordiamo che ha collaborato in sala tecnica Roberto Cavallari e Mauro Ciccarelli, in redazione Edoardo Veglia, da Dario Ronzoni e Armando Mucchino. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.